due cantieri di cui il piano prevedeva la chiusura, uno un cantiere che ha una struttura storica e che funziona a Castellammare di Stabia con una tecnologia che ormai si tende a non adoperare più e quindi costosa, inefficiente, con qualche rischio, e l'altro addirittura quello di Sestri, in cui le navi devono essere costruite a pezzi perché non ci stanno dentro al cantiere. Questi sono problemi che esistevano già circa 15 anni fa, non sono stati affrontati anche perché quegli stessi enti locali che oggi protestano per la chiusura dei cantieri non hanno mai dato la disponibilità. In questo momento il fatturato della cantieristica a livello mondiale si è più che dimezzato. Ora, questo non può essere affrontato semplicemente dicendo ce ne laviamo le mani, perché dietro alla costruzione della nave da crociera c'è tutta un'industria che fornisce gli interni, che fornisce gli apparati, i macchinari, le tecnologie, nonché la progettazione e i servizi, che è un'industria ricchissima, una vera e propria filiera con posti di lavoro molto qualificati e molto pregiati. Quindi per questo io dicevo è un primato da difendere. Noi dobbiamo difenderlo anche perché abbiamo gli strumenti per farlo, abbiamo degli eccellenti tecnici progettisti e anche manodopera. Ma per difendere questo rispetto a paesi a basso costo del lavoro bisogna mettere in campo tutte le risorse di competitività e non si può pretendere che queste risorse, queste capacità servano semplicemente per bilanciare le inefficienze. Le inefficienze vanno eliminate, vanno assolutamente eliminate, altrimenti sparisce tutta la filiera della cantieristica da crociera, che invece, ribadisco, è un primato che l'Italia deve difendere e conservare.